no significa no. Forse dopo significa no. No grazie significa no. Non adesso significa no. Non sei il mio tipo significa no. Vattene bastardo significa no. Mi piaci ma significa no. Non lo so significa no. Adesso dormiamo significa no. E levate significa no. Non sono sicura significa no. Ogni no scavalcato significa violenza. 24 novembre, manifestazione nazionale di donne e per le donne contro la violenza maschile. Ore 14, Piazza della Repubblica, Roma.